Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi, la seconda edizione di Italia in controluce. Oggi puntata speciale di Italia in controluce è dedicata alle decine di giornalisti minacciati o sotto scorta in tutta Italia, soprattutto in Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, dove è più forte il radicamento delle mafie. L'ultimo rapporto di Ossigeno, relativo al 2009-2010, elenca 78 episodi che hanno coinvolto circa 400 giornalisti, 13 aggressioni fisiche, 15 danneggiamenti, 34 minacce con lettere o telefonate anonime, 16 abusi legali che consistono in strumentali richieste di risarcimento in denaro. Il reportage dalla Calabria di Paola Nania. La strada che porta al pizzo di carta parte da dove meno te l'aspetti. Siamo in pieno centro a Roma, qui in un chiassosissimo bar parliamo con Alberto Spampinato. Alberto è un giornalista affermato, lavora all'ANSA e coordina il primo osservatorio, si chiama Ossigeno, osservatorio che monitora i casi di giornalisti minacciati, intimiditi, in qualche caso uccisi per i loro articoli. Il pizzo di carta, ci spiega Alberto Spampinato, è quello che mafiosi o politici o gruppi di potere chiedono ai giornalisti: tacere per non creare e soprattutto non avere problemi. Abbiamo contato negli ultimi tre anni, 2006-2008, sicuramente 200 giornalisti minacciati o pesantemente intimiditi, e di questi 8 noi li abbiamo trovati in Calabria. È possibile fare un identikit di questi giornalisti? Molti sono per esempio giovanissimi, perché? Non sono solo giovani, perché anche in Calabria, no, ci sono dei giornalisti molto giovani, ci sono dei giornalisti che potrebbero andare tranquillamente in pensione e invece continuano a scovare notizie scomode. Però è vero, la maggior parte sono giovani, e io credo che questo io lo ritrovo anche nella storia di mio fratello, che era un giornalista dell'Ora di Palermo, era il corrispondente da Ragusa e fu ucciso nel 1972 perché mentre pubblicava clamorose inchieste su un omicidio. Nella storia di mio fratello, come nella storia di molti di questi giovanissimi giornalisti, io ricavo questa riflessione che i giovani giornalisti hanno più curiosità tante volte, hanno più voglia di capire prima di scrivere qualcosa. Di non appiattirsi, insomma. Sì, non si appiattiscono, non accettano le veline. La tua sensazione è che questi giornalisti calabresi siano abbandonati, siano un po' isolati? Sì, questo senz'altro. Questo è, diciamo, l'andamento tipico di tutte queste storie. I giornalisti minacciati, non solo in Calabria ma dappertutto, non fanno notizia. Fanno notizia solo se sono già dei personaggi noti. Dal centro di Roma la storia calabrese del pizzo di carta ci porta 800 chilometri più a sud. Siamo appena arrivati a Reggio Calabria, ci stiamo dirigendo verso Piazza Garibaldi per incontrare Lucio Musolino, uno dei giornalisti calabresi intimiditi dall''Ndrangheta, giornalista di Calabria Ora. Questa è la tua stanza? Questa è la mia stanza. E andiamo a vedere cos'è alle pareti, perché ci sono cose interessanti. Per esempio là vedo una foto. Quella è la foto di Giovanni Strangio. Mi piace riempire la stanza, appenderci delle fotografie comunque che sono legate al lavoro. Poi dall'altra parte, attento a quello che scrivi, no, c'è un bigliettino. Scherzo, quello è uno scherzo che ci hanno fatto, che ci ha fatto un collega, ma niente. Che però indica qualcosa in qualche maniera. Cioè ti è capitato, insomma, di dover stare attento a quello che scrivi o comunque di rischiare per quello che scrivi? Guarda, l'importante è non farsi, secondo me, intimidire, non preoccuparsi prima di scrivere. Tu ti occupi di cronaca nera qui a Reggio Calabria, ci vuoi raccontare qualche episodio di intimidazione che ti è successo? Nel novembre del 2008 avevamo fatto un'inchiesta su un esponente di una cosca particolarmente famoso qua in città. Avevamo scritto un articolo, due articoli, e lui stesso ci ha minacciato telefonato? Lui ha telefonato in redazione, ha risposto un collega dicendoci che viene e ce la fa pagare, viene e ci fa pentire di aver scritto quello che abbiamo scritto. Lucio parla di Reggio come di una zona di frontiera. Lo è anche, forse di più, la piana di Gioia Tauro, sempre nel Reggino. Qui visitiamo la piccola redazione di Calabria Ora. Agostino Pantano, il coordinatore, ci racconta la sua esperienza. Nel giugno del 2008, uscendo dalla redazione qui a Gioia Tauro di sera, mi sono accorto che qualcuno aveva bucato la gomma della mia macchina. Più grave è quando colpiscono la sfera degli affetti, la sfera dei familiari, come è successo anche a me con un altro episodio. Qualcuno ha messo sulla parabrezza della macchina della mia famiglia una testa, un pesce mozzato in una busta. Tra i collaboratori di Agostino da 2 anni c'è anche Angela Corica. Io mi occupo di cinque paesi in particolare, dove le realtà sono un po' particolari, anche perché sono paesi piccoli dove ci conosciamo un po' tutti e dove il giornalista è la persona più esposta rispetto poi alle altre persone, dove chiunque, se magari si sente colpito, attaccato ad un articolo, si sente anche in diritto di venire a riferirtelo immediatamente e dire dovevi fare in un modo piuttosto che in un altro. In 2 anni sono successe delle cose particolari nella tua professione, hai avuto delle intimidazioni, ci vuoi raccontare cosa è successo? Sì, la prima più eclatante, diciamo, è stata l'anno scorso. In quell'occasione mi hanno sparato 5 colpi di pistola alla macchina, insomma, e quindi è stato il gesto più forte. Stavo facendo delle inchieste sul comune, sulla gestione di determinati servizi. Lasciamo Gioia Tauro per risalire 260 chilometri più a nord. Eccoci a Cariati Paesino, in provincia di Cosenza. Qui andiamo a incontrare Leonardo Rizzo nella sede della sua radio e del suo sito internet Il Ponte. Leonardo ha 70 anni e continua a lavorare in una situazione molto difficile. Nel mese di giugno noi abbiamo evitato la più grossa discarica d'Italia. Ecco, noi abbiamo scoperto che il comune aveva già fatto i passi necessari per dare l'autorizzazione. Dopo che ho pubblicato quelle carte ho ricevuto ancora una sequela di minacce. Di genere mi hanno mandato minacce telefoniche, email. Dicendo cosa? Dicendo che dovevo farmi gli affari miei, non mi interessavano, che dovevo stare zitto. In consiglio comunale non ti dico quello che ricevo ogni volta che c'è consiglio comunale dagli amministratori, soprattutto quelli che vengono colpiti. Il racconto che abbiamo appena sentito ci dice che il pizzo di carta può venire anche da una certa politica, da singoli arroganti o da gruppi di potere diversi dall''ndrangheta. E questo è il caso di Chiara Spagnolo, giornalista del Quotidiano della Calabria. I suoi articoli sul caso Why Not le hanno creato parecchi problemi. Io ho subito una perquisizione nel luglio del 2007 e sono stata per circa un anno sottoposta ad un'indagine per una presunta fuga di notizie che sarebbe avvenuta nell'ambito della famosissima inchiesta Why Not e in particolare per le notizie relative all'avviso di garanzia a Prodi. Sono venuti 15 carabinieri del ROS che come è noto sono specializzati nella lotta alla criminalità organizzata e hanno effettuato una perquisizione abbastanza particolare, insomma, abbastanza pesante. Tra l'altro alcune erano persone che io conoscevo, con cui avevo spesso lavorato, quindi insomma c'è stata una situazione abbastanza difficile. Hanno sequestrato moltissima roba, tra cui questo computer, vari CD che erano di altre persone, di altri miei familiari, tantissime carte. Hanno fatto una perquisizione anche nella redazione del Quotidiano. Da lì è iniziata ovviamente l'indagine a mio carico con le intercettazioni telefoniche, tutto quello che si fa in un'indagine. Indagine poi archiviata, ma a quel punto Chiara non era più affidabile per le sue fonti. Dopo qualche mese ha smesso di seguire la cronaca giudiziaria a Catanzaro e si è trasferita nella redazione di Cosenza. Il pizzo di carta in Calabria, come nel resto d'Italia, si paga anche così, costringendo il giornalista all'isolamento, alla paura, nel peggiore dei casi alla resa. Le storie che abbiamo raccolto dal centro di Roma fino a Reggio Calabria ci dicono che il pericolo è presente, ma c'è sempre chi sceglie di andare avanti facendo semplicemente il proprio lavoro. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Il mio blog, Daniele Biacchesi, lo trovate su radio24.it, poi su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani con nuove storie, nuovi reportage alle 6:30 su Radio 24.